9. Gesù è il Signore, tratto da Yahweh. Riepilogo. La scrittura attribuisce alla divinità di Israele tre nomi, Adonaj, Elohim, Yahweh. Yahweh Elohim e Adonaj non sono sinonimi per indicare la stessa personalità divina. Solo Yahweh è il vero nome proprio della divinità di Israele. La parola di Dio usa una pluralità di termini per indicare lo stesso ed unico Dio. Yahweh è il nome che il Creatore si è dato e che ha rivelato per la prima volta a Mosè. La fede dei santi dell'Antico Testamento non era in un Elohim vago, ma in Yahweh. Il Dio rivelato ad Israele è pluripersonale. Dio ha uno spirito. Lo spirito sia di Dio sia di Yahweh è una persona. Gli israeliti prima della diaspora credevano in una divinità espressa al plurale e che l'espressione di questa pluralità fosse in Yahweh. Egli ha un corpo e si è rivelato nell'angelo dell'Eterno. L'angelo dell'Eterno era l'immagine sostanziale di Elohim, la persona, nella pluralità, dell'Elohim, alla quale l'essere umano può accedere. L'Antico Testamento è l'annuncio evangelo dell'opera e del messaggio di Yahweh. Giovanni il Battista identifica in Gesù il tetragramma. Gesù Cristo afferma di essere Yahweh con l'espressione «Io sono». Gesù e gli apostoli testimoniano della presenza di Cristo nella Torah. In questa sezione di studio daremo le risposte alle domande che ci siamo posti all'inizio della nostra ricerca. Che cosa volevano intendere i primi cristiani? Era un semplice titolo di rispetto, un altro nome di Dio o qualcosa di più profondo? Cosa vogliamo noi intendere oggi quando affermiamo che Gesù è il Signore? Per comprendere la risposta, dobbiamo ricordare che l'Antico Testamento sia stato scritto quasi tutto in ebraico, il Nuovo Testamento in greco, quindi le Bibbie che possediamo in italiano sono una traduzione delle lingue originali. Questo dato di fatto ci aiuta a comprendere le difficoltà che incontreremo nell'esaminare i nomi di Dio. Abbiamo preso atto che il Creatore, Yahweh, si è rivelato ad un popolo, quello ebraico. Noi possiamo trovare la rivelazione della sua persona nei 39 libri, scritti da uomini ebrei, da lui ispirati. Dio, quindi, si è espresso in lingua ebraica e secondo la cultura di quel popolo. Per questo, i nomi dati alla divinità di Israele in ebraico sono Adonaj, Elohim, Yahweh. Oggi noi possediamo questi scritti originariamente ebraici nella loro traduzione greca. Per comprendere il valore della traduzione dell'Antico Testamento in greco, dobbiamo fare un breve passo a ritroso nella storia. Tolomeo Filadelfo, 285-247 a.C., incaricò 72 eruditi ebrei di tradurre tutto l'Antico Testamento in greco volgare, koiné. Questa traduzione venne chiamata la LXX di 70. Il Pentateuco fu terminato al tempo di Tolomeo, mentre il resto dell'Antico Testamento finì di essere tradotto verso il 150 a.C. La versione dei 70, LXX, fu adottata come testo dell'Antico Testamento da Gesù e dai primi cristiani. Una prova che sia Gesù sia i primi cristiani adottassero la LXX come testo della parola di Dio ci viene dalla traduzione del versetto 7:14 di Isaia riportata da Matteo al capitolo 1 e versetto 23, in riferimento a Maria, la madre di Gesù. Nell'ebraico, in Isaia leggiamo: Perciò il Signore stesso vi darà un segno, ecco la giovane concepirà, partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele. Nelle nostre versioni dell'Evangelo di Matteo troviamo scritto: La vergine sarà incinta e partorirà un figlio al quale sarà posto nome Emanuele, che tra... La differenza è evidente, in ebraico abbiamo una giovane che partorirà, mentre nelle nostre versioni abbiamo una vergine. Come mai questa apparente discordanza? Perché le citazioni dell'Antico Testamento riportate nel Nuovo Testamento sono prese dalla versione Septuaginta, che è la più antica traduzione, del testo ebraico in lingua greca. Nel testo ebraico abbiamo Alma, cioè giovane. Nella traduzione greca abbiamo Parthenos, cioè vergine. Questo dimostra che i primi cristiani adottassero come parola di Dio anche la versione dei LXX. In relazione alla nascita miracolosa e unica di Gesù, è ottima la riflessione di Ravi Zacharias, apologeta, nato in India. le prove migliori a favore di qualsiasi storia improbabile sono quelle che provengono da fonti che avrebbero interesse ad attestarne la falsità. Esistono varie fonti che avevano tutto da perdere nel testimoniare della verità della nascita da una vergine, eppure lo hanno fatto. Eca. Il sostegno maggiore a favore della verità della nascita di Gesù da una vergine proviene incredibilmente dall'Islam, che per secoli è stato in netta opposizione al Vangelo cristiano. Infatti il Corano, scritto 600 anni dopo la nascita di Gesù, afferma chiaramente che Gesù è nato da una vergine. Sura 19:19-21. Se non fosse stato vero, ha pro di che affermarlo, dato che l'Islam non ne traeva certo vantaggio? Bravi, Zacharias, perché tra i tanti proprio Gesù Italia. Per Cristo. Editore, poiché l'Antico Testamento è stato tradotto in greco, la domanda più ovvia è: se i tre nomi di Dio erano stati espressi nella lingua ebraica, come li hanno tradotti i 70 eruditi ebrei in greco? Dato che anche il Nuovo Testamento è stato scritto in greco e che in esso non troviamo e non possiamo trovare nessuna traccia del nome di Yahweh, perché esso è un termine ebraico, attestato inoltre che questo nome è impronunciabile e non traducibile, come hanno tradotto in greco i primi cristiani il nome proprio della divinità di Israele, dalla risposta che daremo a questa domanda dipende gran parte della nostra comprensione della scrittura. I tre nomi di Dio, in greco, sono resi con despota, tradotto con signore o padrone, che è l'equivalente di adonaico, theos, tradotto con Dio, che è l'equivalente di Elohim, kyrios, tradotto con signore, che è l'equivalente di Yahweh. Troviamo le tre espressioni in un solo versetto della lettera di Giuda. Si sono infatti infiltrati tra di voi certi uomini che sono stati da tempo designati per questa condanna, empi che mutano la grazia del nostro Dio Theos in immoralità e negano l'unico padrone, despota Dio e il Signor Kyrios nostro Gesù Cristo. Giuda 4. Come abbiamo già accennato, proprio perché i nomi ebraici della divinità di Israele non si trovano nelle traduzioni greche e di conseguenza nelle lingue di altre versioni, dobbiamo cogliere dietro alle apparenti espressioni comuni i nomi riferiti a Yahweh. Infatti, quando troviamo scritto Signore Dio, Matteo 4:7-19, 22-37, Marco 12:29-30, 1 Pietro 3:15, Apocalisse 4:8, 11-17, 16:7, 22:5, altro non è che la trascrizione dall'ebraico Yahweh Elohim. Prendiamo in esame i tre nomi riferiti alla divinità in greco. Il nome Signore, Kyrios. Vediamo il nome proprio della divinità, Yahweh, tradotto dai 70 con Kyrios, cioè Signore. Invocare Yahweh. In Gioele 2:32 è scritto che chiunque avrà invocato di Yahweh sarà salvato. In Romani 10:13 e Atti 2:21 lo stesso versetto è tradotto: chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Facciamo una breve riflessione in merito a queste due citazioni. I testimoni di Geova sono conosciuti per il loro zelo, perché traducono sempre il nome di Dio, Yahweh, con Geova. In questo modo essi vogliono far risaltare che Geova sia Dio Padre, mentre Gesù Cristo sarebbe solamente il Figlio, un Dio inferiore. Nelle loro traduzioni troviamo il nome Geova anche nel Nuovo Testamento, benché sia stato scritto in greco, e questo perché ogni qualvolta riportano una citazione dell'Antico Testamento nella quale si trovi scritto Yahweh, essi lo traducono con Geova, anche se non è sempre così. Vedi Matteo 2:13-19. Da un lato, questo è lodevole, anche se il nome proprio di Yahweh va letto Yahweh e non Geova, perché altrimenti si dovrebbe leggere Alleluia anziché Alleluia, dato che Alleluia significa lodate Yahweh, di cui GH è il nome contratto di Yahweh. Così i due versetti citati nella loro traduzione rendono «e chiunque invocherà il nome di Geova sarà salvato». In questo modo, gli appartenenti a quel gruppo religioso desiderano testimoniare che sarà salvato solamente chi invocherà il nome di Geova. Confronta Michea 7:7, Isaia 12:2. Se però andiamo a leggere in Atti 16 e 31, troviamo scritto: ed essi dissero, credi nel Signore Gesù Cristo, e sarai salvato tu e la casa tua. Paolo e Sila dissero che la salvezza si ottiene mediante la fede nel Signore Gesù. Paolo riconosce Cristo quale nostro Salvatore. Tito 1, 4, 3, 6. La conclusione più ovvia è: o Geova non è il solo a salvare, oppure Gesù Cristo è Geova, il Salvatore. La seconda ipotesi è attestata in tutto il Nuovo Testamento. Luca 2 e 11, Atti 4 e 12. 2. Tentare Yahweh. In Deuteronomio 6 e 16 sta scritto di non tenterete Yahweh Dio tuo. In Matteo 4, 7, lo stesso versetto viene tradotto non tentare il Signore Dio tuo. Anche questa citazione è una prova che Gesù sia Yahweh. I testimoni di Geova traducono il passo di Matteo, per essere fedeli all'ebraico, non devi mettere alla prova Geova il tuo Dio. Non vi è dubbio che, in quel momento, il diavolo stesse mettendo alla prova, tentandolo Gesù, Matteo 4:1. Citando il passo dell'Antico Testamento, Gesù si stava identificando con Yahweh. Che poi Gesù sia Yahweh è confermato da tanti altri passi. Sempre al momento della tentazione, Gesù rispose al diavolo di adorare solo Yahweh, Matteo 4:10. Quando Gesù nacque, lo adorarono gli angeli, Ebrei 1:6, i magi, Matteo 2:11, e divenuto adulto, i discepoli, Matteo 14:33. Gesù lasciò che gli uomini lo adorassero, perché egli è Yahweh. Diversamente, si sarebbe contraddetto con quanto precedentemente aveva affermato al diavolo. 3. Perdonati da Yahweh. Nel Salmo 32, 2, leggiamo: beato l'uomo a cui Yahweh non imputa l'iniquità. In Romani 4, 8, leggiamo: beato l'uomo a cui il Signore non imputerà il peccato. Perdonare i peccati è una prerogativa esclusiva di Yahweh. Gesù, quando era sulla terra, ha più volte rimesso i peccati. Matteo 9, 2, Luca 7, 48, per dimostrare che egli è Yahweh, e non di possedere semplicemente una vaga natura divina. 4. Il tribunale di Yahweh. In Romani 14, 10, 11 leggiamo: poiché tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo. Sta infatti scritto: come io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me, e ogni lingua darà gloria a Dio. Il passo di Isaia, al quale Paolo fa riferimento, dice: annunziatelo e presentate le vostre ragioni, sì. Si consiglino pure insieme. Chi ha annunciato questo fin dai tempi antichi e l'ha predetto da lungo tempo? Non sono forse io Yahweh? Non è altro Dio fuori di me, un Dio giusto, un Salvatore. Non c'è è nessuno fuori di me. Volgetevi a me e siate salvate, voi tutte estremità della terra, poiché io sono Dio e non c'è, è alcun altro. Ho giurato per me stesso, dalla mia bocca è uscita una parola di giustizia, e non sarà revocata. Ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua giurerà per me. Isaia 45, 21, 23. L'accostamento di Paolo è indiscutibile. Yahweh afferma che ogni ginocchio si piegherà davanti a lui. Paolo vede in Yahweh Cristo. Non solo. A volte Paolo traduce il nome proprio di Dio direttamente con Cristo. Vedi Isaia 61 con Efesini 5:14. Sorgi, risplendi, perché la tua luce è giunta e la gloria di Yahweh si è elevata su te. Perciò la scrittura dice: risvegliati, o tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo risplenderà su di te. Queste riflessioni conducono alla seguente conclusione. Quando i primi cristiani attribuivano a Gesù il titolo di Signore, confessavano che Gesù Cristo fosse Yahweh. Così, il credente confessando Gesù è il Signore, afferma che egli sia la divinità dell'Antico Testamento. Perciò quando nel Nuovo Testamento troviamo l'espressione Signore riferita alla Deità, dobbiamo attribuirla solo a Gesù Cristo. Il termine Signore non è mai attribuito alla persona del Padre. Ma quando Israele si sarà convertito al Signore, il velo sarà rimosso, 2 Corinzi 3 e 16.

Paolo, apostolo di Gesù Cristo per comando di Dio, nostro Salvatore e del Signore Gesù Cristo, nostra speranza. 1 Timoteo 1, 1 e 2, 3. Il riferimento è alla Trinità, che Egli ha copiosamente sparso su di noi, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Tito 3, 6. Il riferimento è a Cristo. Nella lettera a Tito, Paolo non fa alcuna distinzione tra la Trinità e Cristo. Tito 1, 3 a 4. E che nei tempi stabiliti ha manifestato la sua parola mediante la predicazione che mi è stata per comando di Dio nostro Salvatore, a Tito, mio vero figlio nella comune fede. Grazia, misericordia e pace da Dio il Padre e dal Signor Gesù Cristo, nostro Salvatore. Nella sua lettera a Tito, Paolo fa riferimento a Dio nostro Salvatore 3 volte, Tito 1, 3, 2, 10, 3, 4. E a Gesù non stupisce, quindi, ciò che Paolo ha dichiarato davanti agli anziani di Efeso, in Atti 20 e 28, conf. Ebrei 9 e 12. Badate dunque a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi, per pascere la Chiesa di Dio, che Egli ha acquistata col proprio sangue. In questo caso, possiamo scorgere nel termine Dio, tanto la Trinità quanto il Signore Gesù. Queste valutazioni ci costringono a fare alcune precisazioni, perché il vocabolo Dio è impersonale, vago. Quando sentiamo affermare che un uomo crede in Dio, al massimo, comprendiamo che egli non sia ateo, che è un religioso, ma non abbiamo nessuna nozione per identificare questa divinità. Il cristiano, il musulmano, l'ebreo credono in Dio, ma da un esame, anche non approfondito, scopriamo che non si tratti dello stesso. Quindi, affermare di credere in Dio equivale a fare solo una vaga professione di fede religiosa. Così vale anche per ciò che concerne il popolo ebraico. Dichiarando che i santi dell'Antico Testamento credessero in Dio, prendiamo una testimonianza impropria, imprecisa. I santi dell'Antico Testamento non credevano in Dio, ma in Yahweh. Esodo 3, 8, 5, 3, 7, 6, 9, 1, 13, 10, 3. Che Yahweh sia stato il loro Dio è fuori discussione. Deuteronomio 26, 17. Ma dichiarare che gli ebrei credevano in Dio equivalrebbe a spersonalizzare la loro fede. Yahweh è una precisa persona della Trinità, Gesù Cristo. Dio è la Deità, nella quale sussistono tre persone. I santi dell'Antico Testamento non credevano in Dio Padre, perché l'esistenza del Padre è stata rivelata solo con la venuta di Gesù Cristo. La stessa problematica sorge riguardo a chi abbia creato il mondo e l'uomo. Affermando che Dio ha creato l'uomo, facciamo una dichiarazione incompleta e, da un certo punto di vista, deviante. Colui che ha creato l'uomo e ogni cosa è identificato con il nome di Yahweh, una quindi delle tre persone della Trinità, cioè il Cristo, e non un inidentificabile generico Dio. Il mondo fu fatto per mezzo di Lui, Giovanni 1 e 10, Colossesi 1 e 16, Ebrei 1, 2. Che Yahweh sia Dio, abbiamo detto, è indiscutibile, ma affermare che Dio abbia creato l'uomo porta l'ascoltatore a ritenere che anche il Padre o lo Spirito Santo siano il Creatore. Distinguere le tre persone della Trinità nella loro opera ad extra è indispensabile. La predicazione del cristiano non ha tanto lo scopo di infondere nell'ascoltatore la fede in Dio, ma piuttosto in Yahweh, in Gesù Cristo. L'uomo è disposto anche a credere in un Dio che lo ha creato, che lo ama, che si cura di lui, perché nel profondo del nostro cuore si sa che qualcuno esiste. Ma quando diamo a questo qualcuno il volto preciso di Gesù Cristo, quando Gesù chiede all'uomo in modo specifico di perdere la propria vita per amor suo, quando afferma che essere religiosi non basta per accedere a Dio, quando sostiene di essere solo Lui la speranza e la salvezza dell'uomo, allora davanti ad un Dio specifico con un messaggio altrettanto specifico, l'uomo sente per natura tutto quello stesso rifiuto che Adamo ed Eva hanno manifestato nel giardino dell'Eden. Il nome padrone, despota, il nome comune di Dio, Adonaj, è stato tradotto in greco con despota, cioè padrone, oppure signore. Questo termine è riferito sia a Gesù che a Dio, e si trova 6 volte nel Nuovo Testamento.